Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Adesso o mai più è il gran giorno degli azzurri ai mondiali di Sudafrica. Confindustria, Italia fuori dalla recessione, ma la manovra avrà effetto restrittivo, dicono gli industriali e la Corte dei Conti. La disoccupazione intanto è al record dal 2005, secondo l'Istat, ma la caduta finalmente rallenta. Telefono azzurro, il 25% dei minori italiani a rischio povertà, i giovani bevono troppo presto. E proprio così è il gran giorno della nazionale, adesso o mai più, come canta in questa canzone Elvis Presley e come titolano anche i quotidiani sudafricani, vero Dario Ricci in collegamento con noi da Johannesburg? Sì, buongiorno dall'Ellis Park di Johannesburg, è proprio così, Now or Never, titolano il The Star, The Citizen, i principali quotidiani sudafricani che chiedono agli azzurri una prova d'orgoglio perché la squadra è molto seguita qui, è molto amata e in virtù anche del suo ruolo di campione del mondo in un paese che tra l'altro è distratto dalla preannunciata candidatura olimpica, buona per dimenticare la delusione dei Bafana Bafana, ma anche del fatto di avere una sua principessa dal preannunciato ormai ufficiale matrimonio tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock, l'ex nuotatrice sudafricana che diventerà appunto principessa di Monaco. Ma per quanto riguarda invece l'attenzione sulla partita, tutta concentrata sulla formazione, Laura, ebbene, su per giù quella che preannunciavamo anche alle 12, Marchetti in porta, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito, poi a centrocampo forse Gattuso a fianco di De Rossi e Montolivio, Tridente, Pepe, Iaquinta, Di Natale, dubbio probabilmente anche l'impiego di Quagliarella in rimonta in queste ultime ore. Da ricordare che col primo posto potremmo diventare primi, basterebbe un pareggio per arrivare secondi, ma nella classifica del nostro gruppo che vede anche Nuova Zelanda e Paraguay in campo contemporaneamente a Polokwane c'è anche il rischio sorteggio, in quel caso sarebbe appunto il sorteggio a decidere alle 19 al Soccer City di Johannesburg quali delle due squadre sarebbero qualificate agli ottavi di finale. Dario, per chiudere, prima di lasciarti al tuo lavoro, hai visto tifosi azzurri in giro? Beh sì, stanno arrivando alla spicciolata. Facce tristi Park, oppure no? Facce trepidanti? No, facce fiduciose, ma c'è comunque anche la paura di non farcela. Comunque ecco, ad allentare la tensione, la festa che abitualmente caratterizza le ore immediatamente dell'immediata vigilia prima del fischio d'inizio. Di solito intorno agli stadi ci sono sempre punti d'accoglienza, certo, divertimenti e cose varie, quindi si allenta la tensione sperando poi che gli azzurri ci diano motivo di festeggiare, soprattutto dopo. Vedremo. Grazie a Dario Ricci in collegamento con noi dal Sudafrica. Benvenuto invece a Dario Ceccarelli con noi in studio, perché così abbiamo visto le cose dal Sudafrica, ora vediamo un po' in Italia. Che facce ci sono tra i tifosi? Ma facce un po' così, diciamo, nel senso che c'è una grande attesa, magari un po' nascosta, perché insomma finora non è che ci sia stato proprio un trionfo questo cammino degli azzurri, però tutti sotto sotto stanno aspettando la partita, o a casa degli amici oppure nei luoghi di lavoro sul computer eccetera eccetera. Però resta il fatto che insomma su questa nazionale come sempre si concentrano gli umori proprio più svariati. Abbiamo visto che si è sbollita la provocazione di Bossi, che vista la malparata si è subito scusato con gli azzurri, ma resta un po' quello spirito da fazione che divide l'Italia, cioè gli apocalittici che ce l'hanno su con la nazionale a prescindere, e poi invece quelli che fino all'ultimo sperano che la nazionale batta un colpo, e cioè che, come è successo in altre occasioni, con l'82, 4 anni fa, che il brutto anatroccolo diventi improvvisamente un cigno. Qui c'è proprio da sperarci, una grande trasformazione, una grande trasformazione. Dario, tutti quanti non avremo occhi che per l'Italia, poi vi ricordo anche gli speciali di Radio 24, ma che altre partite possiamo vedere oggi? Beh, oggi contemporaneamente giocheranno Paraguay e Nuova Zelanda, che come aveva detto anche prima Ricci ha un'importanza agli effetti della nostra qualificazione, e poi ci sono altre due partite, l'Olanda già qualificata se la vedrà col Camerun, mentre la Danimarca sfida il Giappone. Grazie a Dario Ceccarelli, gli speciali di Radio 24, il primo alle 16.45, il secondo a fine partita e infine tutto lo spazio per parlare dalle 21 alle 23. Usciamo dal campo di calcio e andiamo in campo economico. Siamo fuori dalla recessione, ci ha detto oggi il centro studi di Confindustria. La ripresa è solida. Chiara Di Michele. Sì, buongiorno, è proprio così, l'economia italiana è fuori dalla recessione, ma rimane comunque l'allarme occupazione. Questo in sintesi quanto emerge dall'ultimo rapporto del Centro Studi di Confindustria, che oggi prevede una ripresa più solida rispetto alle stime di dicembre. Malgrado la manovra economica, secondo gli economisti di Viale dell'Astronomia, avrà un impatto restrittivo sul PIL pari a meno 0,4% l'anno, nel 2010 la crescita sarà pari all'1,2% per salire all'1,6% nel 2011. A fronte di questi dati positivi non si può dire altrettanto sul fronte occupazionale. Sentiamo il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Il problema che rimane, nonostante la ripresa, è quello dell'occupazione. In Italia avremo un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione rispetto ai livelli attuali e questa è una delle questioni dell'eredità, oltre al debito pubblico, più gravi della crisi, che porta a abbassare il tasso di crescita potenziale perché disperde capitale umano. Dopo gli oltre 500.000 posti di lavoro già persi a fine 2009, in due anni di crisi, tra il 2010 e il 2011 sarebbero a rischio altri 246.000 lavoratori, secondo Confindustria. Il tasso di disoccupazione salirà quest'anno all'8,6%, era invece del 7,8% nel 2009, fino a raggiungere il 9,2% nel 2011. Da Viale dell'Astronomia è tutto, restituisco la linea allo studio. E sulla occupazione, oltre alle stime di Confindustria, arrivano oggi i dati Istat. Nel primo trimestre del 2010 il numero di persone in cerca di occupazione è aumentato del 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2009. Il tasso di disoccupazione è salito al 9,1%, dato non destagionalizzato, dal 7,9% dello stesso periodo del 2009 ed è quindi il livello più alto dal primo trimestre del 2005. Qualche preoccupazione sulla manovra economica è stata espressa questa mattina anche da Confindustria. Il tema è stato ripreso dalla Corte dei Conti. Allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta in diretta con noi. Sì, buongiorno, è così. Prima la Banca d'Italia, poi ieri lo stesso Ministero dell'Economia, oggi la Corte dei Conti. La manovra varata da Palazzo Chigi potrebbe nel prossimo triennio frenare la crescita. Sarebbe questa una conseguenza dei tagli alla spesa sia a livello centrale che periferico. È elevato il rischio, spiega il Presidente di sezione della Corte dei Conti, Giorgio Paleologo, di un impatto di segno negativo sulla crescita economica. Un meno 0,5% da qui al 2013, puntualizza la magistratura contabile, che assottiglierebbe gli effetti attesi della manovra sul disavanzo, soprattutto per via della flessione del gettito fiscale connessa ad un più basso livello di attività economica. Bene i sacrifici, chiarisce comunque la Corte dei Conti, ma basta con lo spreco di denaro pubblico. E proprio in tema di sacrifici, ieri il ministro Tremonti ha ricordato alle regioni che è il loro turno, che non ci sono alternative al taglio degli sprechi, ma i governatori non ci stanno e ricordano i tagli alle regioni avranno conseguenze negative sui servizi ai cittadini. Infine continuano in Commissione Bilancio del Senato le votazioni sugli emendamenti e da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ancora in tema di tagli, la Camera prosegue a oltranza l'esame del decreto legge sui tagli alle fondazioni liriche. Gli interventi dell'Italia dei Valori sono andati avanti per tutta la notte e proseguono. Ho qualcosa da dire invece all'onorevole Cicchito. Benedetto il Signore. Quando si dice fare ostruzionismo, i primi furono i comunisti, quando nel 1949 andarono avanti 3 giorni e 3 notti contro l'adesione alla NATO. Strumento usato spesso dai radicali, in queste ore viene rispolverato dall'Italia dei Valori. Si discute degli enti lirici, con i tagli previsti dal decreto. L'IDV, che vorrebbe far approvare alcuni emendamenti, da battaglia da ieri sera, con tanto di diretta degli interventi sul profilo Facebook di Di Pietro. Qualche momento di tensione fra gli schieramenti, ma nessuna interruzione. E se anche Di Pietro ha schiacciato un pisolino, al momento di votare si è risvegliato ed è ripartito più agguerrito che mai. Porteremo ancora avanti la nostra protesta. Solo la caduta fisica potrà fermarci. Per voi, ha detto rivolgendosi agli altri parlamentari, è più importante alle 16 vedere la partita. A votare nelle prime ore del mattino c'erano circa 350 deputati. Il ministro dei beni culturali, Sandro Bondi, coraggiosamente, non ha mai abbandonato il suo posto al banco del governo. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di evasione fiscale, notizia appena battuta dalle agenzie, la leggiamo insieme. Rocco Siffredi, secondo quanto si è appreso l'attore di film porno, imprenditore cinematografico, finito nel mirino della Guardia di Finanza di Ortona, provincia di Chieti, quale presunto evasore fiscale totale. I suoi problemi con il fisco erano già iniziati con le fiamme gialle, insomma questo sarebbe il prosieguo di quel inizio principio di problemi dei mesi scorsi. Vedremo nelle prossime ore. Adesso andiamo all'estero per la cronaca di un drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Barcellona. Un treno ad alta velocità ha travolto un gruppo di giovani che stavano attraversando i binari. E la medida in che si hubiese utilizzato il passo subterraneo, pues evidentemente esto no estaríamos seguramente en estos momentos hablando de esta tragedia. Se avessero usato il sottopassaggio, ora non staremmo parlando di questa tragedia. Così il sindaco di Castelldefels Playa, vicino a Barcellona, ha commentato a Radio Cadena Ser l'incidente ferroviario della notte, in cui sono morte 12 persone. Arrivati alla stazione di Castelldefels, i ragazzi volevano andare in spiaggia per la festa di San Giovanni, ma invece di prendere il sottopassaggio hanno attraversato i binari senza accorgersi che in quel momento stava arrivando un treno ad alta velocità. Inevitabile l'impatto. Almeno 13 feriti, in maggioranza fra i 16 e i 26 anni. Tre di loro sono in gravi condizioni. Testimoni raccontano che il sottopassaggio era chiuso, ma le autorità hanno smentito questa versione dei fatti e parlano invece di imprudenza da parte dei giovani. Sarà aperta un'inchiesta sull'incidente ferroviario, il più grande della storia spagnola negli ultimi 30 anni. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. Sarà il generale David Petraeus a rimpiazzare il generale McChrystal al comando delle forze americane NATO in Afghanistan. Petraeus è l'artefice dell'ultima strategia di intervento in Iraq e sostituisce il collega a seguito di una intervista tutt'altro che lusinghiera sull'amministrazione Obama rilasciata appunto da McChrystal. Sarà capace il carismatico David Petraeus di vincere la guerra dell'Afghanistan? La risposta è proprio nel siluramento del generale McChrystal. A costui Obama aveva affidato l'incarico di organizzare un'offensiva militare ma anche mediatica, sistemare le cose in Afghanistan e cominciare il ritiro delle truppe nel luglio 2011. L'obiettivo di questa missione era dichiarare vittoria un minuto prima che si sentissero gli effetti negativi del ritiro. McChrystal ha rifiutato questa ricetta. La guerra lui la voleva vincere davvero. Petraeus, lo stratega della controguerriglia in Iraq, è molto più adatto ad assolvere il compito. Gli è bastato un anno in Iraq per riportare i Marines nelle basi e non importa se oggi a Baghdad si muore quasi come prima. Buongiorno, ben ritrovati per GR24, le principali notizie che abbiamo trattato nella prima parte di questo giornale radio. Ovviamente l'incontro Italia-Slovacchia di oggi pomeriggio alle 14, adesso o mai più, è il grande giorno per gli azzurri ai mondiali di calcio. E poi Confindustria dice l'Italia è fuori dalla recessione, ma la manovra economica avrà un effetto restrittivo, è sulla stessa linea anche la Corte dei Conti. E intanto la disoccupazione interna è al record dal 2005, sono dati Istat, ma sempre l'Istat comunica la caduta finalmente rallenta. Un bambino su quattro in Italia è a rischio povertà. Sono dati del rapporto Eurispes Telefono Azzurro, che prende in esame la situazione dei bambini e degli adolescenti italiani negli ultimi 10 anni. E si segna anche un altro triste primato nel nostro paese. La prima bevuta arriva molto presto. Lo spiega al microfono di Katia Caramelli Barbara Forresi del Centro Studi Telefono Azzurro. Ci sono tutta una serie di fattori di rischio che emergono negli ultimi anni. Uno di questi è appunto quello del fenomeno dell'alcolismo, che non accenna a diminuire. E il triste primato dell'Italia è proprio quello riguardante questo esordio molto precoce intorno agli 11-12 anni, che emerge dalle nostre stesse indagini. Il ruolo e la funzione della famiglia è l'elemento centrale di questo rapporto, potremmo dire. Vediamo un po' in crisi la funzione genitoriale. I ragazzi ci dicono che la famiglia è il loro valore, il loro obiettivo, il porto sicuro, ma ci dicono anche che i genitori sono sempre meno capaci di offrire un riferimento normativo, e questo ha tutta una serie di influssi. L'alcolismo è uno, precoce è uno, ma anche i pericoli nell'accesso alle nuove tecnologie sono un altro, la difficoltà dei giovani anche nelle situazioni scolastiche. Per quanto riguarda i bambini, leggevo invece il dato sulla povertà. In tutta Europa, Italia compresa, l'impatto della crisi economica sui bambini sta iniziando ad essere decisamente importante, sia perché influisce sulle famiglie, quindi sui finanziamenti stanziati per le famiglie, sia perché influisce proprio sulle opportunità che poi possono essere offerte ai bambini e agli adolescenti di crescere in contesti più sani. La situazione di povertà aumenta la conflittualità intrafamiliare, aumenta il rischio di dispersione scolastica, aumenta il rischio di lavoro minorile. Qualche elemento positivo da segnalare? I ragazzi, anche al di là di quella che è la funzione genitoriale un po' in crisi, mostrano di avere delle competenze anche di gestione dei pericoli molto, molto elevate. E l'abbiamo potuto verificare non soltanto nella gestione delle situazioni di adescamento online, dove le nostre indagini evidenziano degli adolescenti sempre più bravi nel difendersi anche da adulti che cerchino di adescarli. Confrontando le nostre indagini del 2007, del 2008 e del 2009, abbiamo potuto vedere come si è aumentato il numero di ragazzi che non salgono in macchina con chi ha bevuto, così come è aumentato il numero di adolescenti che non guida il motorino in stato di ubriachezza. Ed ora andiamo a Palermo per l'udienza del processo d'appello a carico del senatore Marcello Dell'Utri, accusato di concorso in associazione mafiosa. Non vorrei essere nei vostri panni, perché dovete prendere una decisione storica anche per il nostro paese. Così, rivolgendosi alla Corte d'Appello di Palermo, che nei giorni scorsi è stata oggetto di un inusuale attacco mediatico, ha concluso la sua replica al processo Dell'Utri, il PG Antonino Gatto, che ha rinnovato anche la richiesta di condanna dell'esponente politico per concorso esterno in associazione mafiosa a 11 anni di reclusione. Il senatore Marcello Dell'Utri, che in primo grado era stato condannato a 9 anni, oggi non era presente nell'aula bunker di Pagliarelli ed ha rinunciato così alle dichiarazioni spontanee annunciate. Ai suoi difensori, che hanno portato pure in aula una lettera del compagno di cella del pentito Gaspare Spatuzza, sostenendo che il boss è assolutamente inattendibile, ha replicato il PG Gatto, sostenendo che il mondo di Marcello Dell'Utri era fatto di mafiosi e che Spatuzza è assolutamente attendibile. Nel pomeriggio la Corte entrerà in Camera di Consiglio. La sentenza sarà letta fra questo fine settimana o al massimo all'inizio della prossima. Giampiero Sagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Intanto stamani la difesa di Aldo Brancher, il neo ministro imputato a Milano in uno stralcio del processo sul tentativo di scalata ad Antonveneta da parte di BP, ha eccepito in base alla legge il legittimo impedimento. Processo sospeso invece per tutti gli imputati del processo Media Trade di Milano, dove il GUP Marina Zelante ha accolto l'istanza di legittimo impedimento presentata dai difensori di Silvio Berlusconi, che in questi giorni è in Canada per il G8, ma ha deciso di mandare gli atti alla Corte Costituzionale affinché venga fatta una scelta sulla validità del lodo Alfano che consente il rinvio dei processi per il Presidente del Consiglio e per i ministri. Con una lettera trasmessa ai soci della società Expo 2015 SPA, Lucio Stanca ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato. Sentiamo in diretta con noi Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come ormai si mormorava già da giorni e come lui stesso aveva anticipato, Stanca ha rassegnato le dimissioni. Nella lettera trasmessa ai soci di Expo 2015 SPA ha comunicato di aver abbandonato con decorrenza immediata anche il consiglio di amministrazione. Nella lettera Stanca segnala di essersi trovato nelle condizioni di non poter più svolgere il suo ruolo all'interno della società di gestione dopo le critiche espresse dalla presidente Diana Bracco sulle spese, i programmi di contenimento del budget e i ritardi nell'organizzazione del progetto. In un'intervista al Corriere della Sera di oggi, già Stanca aveva parlato delle sue dimissioni di strumentalizzazione e aveva motivato il suo addio con motivi giuridici. Nella fase di realizzazione, diceva, secondo l'articolo 54 della finanziaria cambia la governance e rende di fatto superata la figura dell'amministratore delegato, ma Stanca ha alluso anche a basse manovre intorno al suo progetto ed è tutto. Grazie Valentina Furlanetto. Andiamo al nostro sondaggio di oggi. Case e Vaticano. Vi scandalizza che la Chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare? Era questa la domanda che vi abbiamo rivolto nel corso di Mattino 24. Sentiamo Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani, che dice: siamo di fronte a una versione moderna di simonia. Quell'enorme di fiume di denaro e i grandi privilegi che l'Italia garantisce al Vaticano hanno un effetto chiaro, quello di inquinare la vita pubblica del nostro paese e della stessa Chiesa Cattolica. È quello che è stato in passato la simonia. Nel Medioevo con la simonia si descriveva, diciamo, la compravendita di cariche ecclesiastiche e dell'assoluzione dei peccati. Oggi invece la simonia è rivolta ad acquisire, mettiamo, appoggi politici e favori materiali. In pratica, con l'immenso patrimonio immobiliare, è stato utilizzato ormai dagli ultimi 10-15 anni in particolare per blandire la classe dirigente italiana. I vostri voti, i voti degli ascoltatori di Radio 24, 67% sono i sì, quindi 67% gli scandalizzati, il 33% di voi invece ha votato no. Andiamo al tennis, riprende oggi il match record tra Mau e Isner al torneo di Wimbledon. La partita è stata interrotta ieri per la seconda volta per oscurità al quinto set sul punteggio di 59 pari. Ci voleva proprio un evento eccezionale per celebrare il giorno del ritorno a Wimbledon della regina Elisabetta dopo 33 anni. Sua maestà si affacciò l'ultima volta sui green dei championship nel 1977 in occasione dei 100 anni del torneo più prestigioso al mondo ed è l'ultimo successo inglese firmato da Virginia Wade. Questa volta la regina, che aveva già programmato l'ospitata, terrà battesimo il Never Ending Match, come già stato ribattezzato dai tabloidi inglesi. La sfida tra il gigante americano John Isner, numero 19 del ranking ATP alto 2,6 m, e il francese Nicolas Mahou, numero 148 del mondo, che a suon di ace hanno prodotto un surreale testa a testa, interrotto per il secondo giorno consecutivo sull'incredibile 59 game pari al quinto set. Un punteggio che ha mandato in tilt il computer e le statistiche di Wimbledon e fatto disertare ieri la conferenza stampa di re Roger Federer alla caccia del settimo titolo. L'odissea del tennis, arrivata già a 10 ore complessive di gioco, record assoluto, ricomincia non prima delle 16:30 ore italiane sul campo 18. Dario Pupo, GR24, Sole 24 Ore. Chiudiamo tornando per un istante alla manovra economica, che dicevamo al vaglio del Senato comporta rischi per la crescita, così diceva la Corte dei Conti, così dice in parte anche Confindustria. Le regioni, sappiamo, sono sul piede di guerra. In questo momento le agenzie battono la notizia della disponibilità delle regioni a restituire le competenze relative al decreto legislativo 112 Bassanini allo Stato. Così ha detto il presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani, in una conferenza stampa che si è tenuta poco fa. Ovviamente tutte le informazioni nel prossimo GR24 alle 14. Questa edizione invece si conclude qui, condotta e curata da Laura Bettini, con in regia Paolo Corleoni. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.